Irrinunciabili presenta Intercepto, il guerriero della strada, un film di George Miller. Intercepto, il guerriero della strada è un sequel, a cui non importa quasi niente del primo capitolo. Probabilmente perché non aveva incassato molto. Il titolo originale però Mad Max 2. Le logiche del mercato hanno poi voluto che in America si chiamasse Road Warrior. Il contesto è comunque il medesimo, anche se qui è ancora più selvaggio e senza regole. Ci troviamo in un mondo senza legge, con scarsa tecnologia. Il tutto è conseguenza di una guerra nucleare. Gli uomini sono mossi da istinti di sopravvivenza. Il primo Mad Max è però importante, getta basi solide per tutto l'immaginario post-atomico apocalittico che vedremo in moltissimi altri film. Il tutto comunque verrà migliorato da questo titolo. Inoltre, l'esordio di Max ispira palesemente uno dei manga anime più conosciuti al mondo, Hokuto no Ken, ovvero quel Ken guerriero con cui tantissimi ragazzi italiani, ora divenuti uomini, sono cresciuti guardandolo sulle reti regionali. Max è interpretato da un giovane Mel Gibson, solitario e taciturno, vaga per le terre perdute, con la sua potente macchina. Ricorda certi eroi di Clint Eastwood. In effetti la pellicola ricalca molto gli archetipi del western, una terra desolata, cattivi che terrorizzano una piccola comunità, l'eroe solitario in soccorso. Compagni inseparabili di Max sono un cane, un piccolo Australian Shepherd a temperamento tosto quanto basta, ed un fucile a canne mozze. Max entrerà in contatto con alcuni sopravvissuti all'olocausto nucleare, i quali hanno creato una piccola comunità. Il loro scopo è raggiungere la costa, per poter avere una vita migliore. Ci troviamo infatti nell'inospitale entroterra australiano, ovvero miglia e miglia di nulla assoluto. C'è però un problema, i cattivi. In questo caso i cattivi sono dei razziatori, dall'estetica punk, dediti ad ogni forma di violenza e saccheggio. Vogliono la benzina, che la piccola comunità conserva gelosamente, per cui la cingono d'assedio. Max, per puro tornaconto personale, deciderà di aiutare i sopravvissuti a raggiungere la costa. Gibson nel film dice poche battute, ma i suoi silenzi e la sua andatura ciondolante valgono più di qualsiasi frase. Duro, cinico, pare che non gli importi di nulla, quasi sull'orlo del nichilismo. Però, sotto sotto, alla fine, conserva ancora una sua umanità, che possiamo vedere solo in rari casi, come nel suo rapporto con un giovane ragazzo, incapace di parlare, che vive in uno stato semiselvatico. Il film ha un'estetica fantastica, i cattivi sono dei punk senza etica, hanno vestiti bizzarri come bizzarre sono le loro macchine, tutte modificate. Ricordano gli antichi barbari. Il loro capo, Lordo Mungus, indossa una maschera che nasconde un volto sfigurato, ha un fisico da culturista e il carisma del leader. La scena finale è l'inseguimento con auto più epico che si sia mai visto al cinema. 20 minuti nel deserto australiano, dove succede letteralmente di tutto. Sportellate, cappottamenti, macchine sfasciate, corpi che volano. E ripetuti assalti alla cisterna da parte dei feroci razziatori di Mungus. Ancora gli archetipi del West ritornano, e non possiamo non pensare agli attacchi alla diligenza da parte degli indiani. Durante le riprese diversi stunter si sono infortunati. Alcune scene dove si sono fracassati al suolo per poi essere portati in ospedale sono presenti nel film. Sono state sfasciate più di 40 autovetture. La follia. Altri tempi forse. Anzi, sicuramente. Testimone di un'epoca che non esiste più, dove c'era molto meno controllo sulle produzioni cinematografiche e un briciolo di incoscienza. Capolavoro. Buona visione.